Una donna in casa ci vuole. L'ometto lo guardava con rimprovero, ma non parlava, almeno in presenza di Efis. E questo non voleva, a sua volta, forzare la sorte, e pensava che era peccato cercare di opporsi ai voleri della provvidenza. Bisognava abbandonarsi a lei come il seme al vento. Dio sa quello che si fa. Intanto non si decideva ad andarsene, aspettando Grixenda. E quando non c'era in casa Giacinto, scendeva al vicolo, sedeva sul ciglione della valle e spiava la strada bianca ai piedi del monte. Il palpito del molino gli dava un senso di commozione, quasi di sgomento. Gli pareva il battito d'un cuore nuovo che ringiovaniva la vecchia terra selvaggia. Là, dentro quel palpito, batteva il sangue di Giacinto ed Efis sentiva voglia di piangere, pensando a lui. Eccolo, gli sembra sempre di vederlo, alto, sereno, bianco di farina come una giovine pianta coperta di brina, purificato dal lavoro e dal proposito del bene. Tutti lo amano ed egli è gentile con tutti. Le donne che portano il frumento al molino si aggrappano intorno a lui, curvo a pesare la farina, e lo guardano con occhi di madre, con occhi d'amore. Efis era stato una sera a trovarlo e, fra il rombare della macchina e l'agitarsi delle figure pallide su uno sfondo ardente, fra l'incrociarsi delle ombre e lo stridere dei pesi, gli era parso di intravedere uno scorcio del purgatorio. E Giacinto, che penava fra i dannati, ma aspettando il termine dell'espiazione. La domenica dopo Pasqua andò a una piccola festa campestre nella chiesetta di Valverde. Era un pomeriggio freddo e sulla vallata dell'Isalle, battuta dal vento di tramontana, con Monte Albo giù in fondo fra le nuvole, come una nave incagliata in un mare burrascoso, pareva dominasse ancora l'inverno. Efis seguiva una fila di paesane avvolte nelle loro tuniche grevi e col vento che gli batteva sul petto sentiva qualche cosa di nuovo, di forte, penetrargli nel cuore. La gente camminava triste, ma tranquilla come in processione, avviata non a un luogo di festa, ma di preghiera. Anche una fisarmonica lontana ripeteva il motivo religioso delle laudi sacre ed egli sentiva che la sua penitenza era cominciata. Arrivato alla chiesetta, sull'alto della china rocciosa, sedette accanto alla porta e si mise a pregare. Gli sembrava che la piccola Madonna guardasse un po' spaurita dalla sua nicchia umida la gente che andava a turbare la sua solitudine e che il vento soffiasse sempre più forte e il sole cadesse rapido sopra la valle per costringere gli importuni ad andarsene. Infatti, le donne si avvolgevano meglio nelle loro tuniche e, dopo aver recitato il rosario, si avviavano al ritorno. Non rimasero che una venditrice di torroni e di pupazzi di farina nera ricoperti di zucchero e due uomini seduti uno per parte davanti alla porta della chiesetta sotto l'atrio in rovina. Efis sedeva poco distante da loro e li guardava gravemente. Li riconosceva, li aveva veduti laggiù alla festa del rimedio. Erano due mendicanti vestiti decentemente da borghesi, con pantaloni turchini e giacca di fustagno. Uno, giovane ancora, alto e curvo, col viso giallo scarnificato, ove pareva fosse rimasta la sola pelle sulle ossa, con le palpebre livide abbassate, chiedeva, muovendo appena le labbra grigie sui grandi denti sporgenti, come dormisse e parlasse in sogno, indifferente al mondo esterno. L'altro, vecchio, ma forte, col viso rosso cremisi congestionato, tutta la persona agitata da un tremito che sembrava finto, aveva messo il cappello fra le sue gambe aperte e di tanto in tanto si curvava a guardarvi dentro le piccole monete. Ma la sera cadeva rapida, grave di nuvole, e la gente se ne andava. Anche la donna dei confetti chiuse le sue cassette ancora piene e si mise a parlare sdegnosa coi mendicanti. «Non vale la pena di far tanta strada. Festa da niente, fratelli miei!» «Non si campa più», disse il vecchio, e versò le monete in un fazzoletto e rimise il cappello in testa. Ma quando fu per alzarsi, ricadde, come se i piedi gli scivolassero sul selciato dell'ingresso, e batté la testa al muro e le mani al suolo. Al tintinnare delle monete contro la pietra, l'altro mendicante sollevò il viso, terreo, spalancando gli occhi vitrei, come sentisse un rumore minaccioso. Il vecchio gemeva. La donna ed Efis s'erano precipitati su lui, ma non riuscirono a fargli tener sollevata la testa. «Bisogna distenderlo», disse la donna. «Ora gli darò un po' di liquore. Mettilo giù. Aiutami!» Fu messo giù, ma le gocce d'un liquido verde che ella tentò di versargli in bocca sopra i denti serrati gli si sparsero sul mento. «Pare morto, e tu non ti muovi», ella disse all'altro mendicante. «Era malato, non rispondi!» L'uomo tentò di parlare, ma solo un mugolio tremulo gli uscì di bocca. Poi scoppiò a piangere. «Va, muoviti, chiama i pastori che stanno lassù nel bosco!» «Dove lo mandi, che è cieco?» disse Efis, inginocchiato con una mano sul cuore del vecchio. Il cuore sussultava, come tentando ogni tanto di sollevarsi, e subito ricadendo. E l'ombra si addensava, rapida. Ogni nuvola, passando sul vicino orizzonte, lasciava un velo. Il vento urlava dietro la chiesa, tutte le macchie tremavano, protendendosi in là verso la valle, e pareva volessero fuggire, luminose d'un verde metallico, agitate da una convulsione di tristezza e di terrore. Anche la donna ebbe paura della solitudine e di quella morte improvvisa. Si mise le cassette sul capo e disse: «Bisogna che vada, avvertirò il medico a Nuoro». Così Efis rimase solo fra il moribondo ed il cieco. «Il mio compagno soffriva di cuore», raccontava il mendicante. «Anche questi giorni scorsi è stato male, ma nessuno ci credeva. La gente non crede mai». «Era tuo parente?» «No. Ci siamo incontrati 10 anni fa, alla festa del miracolo. Io allora avevo un compagno, Giovanni Maria, che mi maltrattava come un cane. Allora questo povero vecchio mi prese con sé. Mi teneva come un figlio. Non mi lasciava mai la mano se non ero seduto al sicuro. Adesso è finito». «E adesso come farai?» «Cosa vuoi che faccia? Starò qui aspettando la morte. Ho tutto con me. Sia salva l'anima mia». «Io posso ricondurti fino a Nuoro», disse Efis, ed improvviso cominciò a piangere. Curvo sul moribondo tentava di rianimarlo, bagnandogli le labbra col liquore lasciato dalla donna e la fronte con uno straccio inzuppato nel vino. Ma il viso, tragico, si tingeva di viola e di verde, sempre più duro e immobile alla luce fosca del crepuscolo. Anche il cuore cessò di battere. Efis riviveva l'ora più terribile della sua vita. Ricordava il ponte, laggiù, fra l'ondulare dei giuncheti alla luna, e lui, curvo, a sentire il cuore del suo padrone morto. Eppure si sentiva sollevato, come uno che dopo un lungo errare in luoghi impervi ritrova la via smarrita, il punto donde è partito. «Ma tu non vai?» domandò il cieco, sempre immobile al suo posto. «Andrò quando Dio comanda. Adesso accendo il fuoco, perché bisogna passare qui la notte». Andò in cerca di legna. Il vento infuriava sempre più e le nuvole salivano e scendevano dall'ortobene, giù e su, come torrenti di lava, come colonne di fumo, spandendosi su tutta la valle. Ma sopra le alture di Nuoro, una striscia di cielo rimaneva di un azzurro triste di lapislazzuli e la luna nuova tramontava, rosea, fra due rupi. Ritornando verso la tettoia, Efis vide il cieco che s'era mosso e stava curvo sul compagno, chiamandolo a nome. Piangeva e cercava l'involto delle monete. Trovato che l'ebbe, se lo cacciò in seno e continuò a piangere. Passarono la notte così. Il cieco raccontava le sue vicende, alternandole a racconti della Bibbia, e il suo dolore si calmava rapido, come un male violento che passa presto. «Cosa credi, fratello mio? Io son nato ricco. Mio padre era come Giacobbe, ma senza tanti figli, e diceva: "Non importa che mio figlio sia cieco, i suoi occhi sono d'oro." Alludeva alle sue ricchezze. "E ci vedrà lo stesso." E mia madre, che aveva una voce dolce come un frutto, mi ricordo diceva: "Basta che il mio Istène si conservi innocente, tutto il resto non importa." E così ti dico, fratello mio, mi hanno mangiato la roba. Morto mio padre e mia madre, mi hanno piluccato come un grappolo d'uva, tutti, parenti e conoscenti. Dio li perdoni. Mi hanno costretto ad andare ad elemosinare, ma l'innocenza l'ho conservata. Così ti dico, io non ho fatto mai male a nessuno, ma il Signore mi ha sempre aiutato. Prima Giovanna e Maria, Dio l'abbia in gloria, poi questo. Sono stati miei compagni, miei fratelli, come gli angeli che accompagnavano Tobia. Adesso, anche adesso, la compagnia non ti mancherà, disse Efis con voce grave. Ma cosa intendi quando dici che sei innocente? Che cammino verso l'eternità, disse il cieco sottovoce. Vado verso una porta che mi sarà aperta a due battenti e non penso ad altro. Se ho un pane, me lo mangio. Se non l'ho, sto zitto. Non ho mai toccato la roba altrui, non ho mai conosciuta la donna. Giovanna e Maria me ne condusse una accanto, una volta. Io sentii che odorava di male e mi buttai per terra come passasse il vento. Che devo fare, anima mia, se non mi salvo l'anima? Che cosa ho d'altro, fratello caro? Ma i denari a questo morto, glieli hai presi, malanno, disse Efis. Erano i miei. Che fanno i denari addosso a un morto? Così ti dico. No, io non ho rubato né sparso mai il sangue. Neppure i fratelli di Giuseppe sparsero il sangue. Giuda disse loro: "Vendiamolo meglio agli ismaeliti piuttosto che ucciderlo." E così fecero. La sai tu tutta la storia di Giuseppe, ebreo? Mi dispiace che te ne vai. Se no, te la racconterei. No, non me ne andrò, disse Efis. Io ti accompagnerò d'ora in avanti. Ci porteremo per mano l'uno con l'altro. Il cieco abbassò un momento la testa, palpando l'involto delle monete. Non parve meravigliato della decisione dello sconosciuto, solo gli domandò: "Sei un mendicante anche tu?" "Sì", disse Efis. "Non te ne sei accorto? Allora va bene. Prendi, tienilo tu." E gli porse l'involto del denaro. Fine del capitolo 13° di Canne al vento. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.